Contro la noia, contro la paura, ascoltiamo Due di Denari con i due antivirus Meassa e La Rosciani. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. No, ma Deborah, scusa, ma noi non siamo ancora pronti col serpente corallo. Saremo Guarda. Pronti alla fine della prossima settimana. Adesso ci stiamo ancora organizzando, scusaci. Perché questo serpente corallo? Ma perché ti dico che devi fare uno spin-off dalla trasmissione tradizionale che in genere si occupa di truffe finanziarie, ma a quanto pare qua bisognerà che ampliate tu e i tuoi soci il vostro raggio d'azione e dovete andarvi ad occupare anche di phishing tra gli annunci di lavoro. La sai l'ultima? No, lo apprendo, devo dire, con un certo sconcerto. Perché ecco, ho visto raccontiamola questo... ai nostri ascoltatori. Sì. Sì, ho visto questa iniziativa di Assosom, Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, ha lanciato una campagna di comunicazione, si chiama No Phishing, e uno dice, vabbè, certo, chi di noi è favorevole al phishing? Nessuno. Ma il tema è che questo No Phishing è proprio dedicato a sensibilizzare i lavoratori e gli aspiranti tali, coloro che cercano lavoro, sui rischi derivanti da frodi informatiche legate a falsi annunci di lavoro. C'è persino quello, quindi phishing perché uno è convinto di essere in contatto con una importante agenzia per il lavoro, ad esempio, perché questi siti farlocchi, truffaldini, siti corallo, insomma, arrivano anche alla perfidia di simulare, imitare quelli delle maggiori agenzie per il lavoro, e invece non sono assolutamente quei siti originali, sono solo modi per sottrarci i dati, diciamo, quando va bene, i soldi, quando il serpente corallo si dispiega in tutta la sua bellezza, si fa per dire, cara Debora. Infatti. Senti, invece non sarà nessun phishing, nessuno scherzo dietro a una possibile convocazione prossimamente da parte dei nostri datori di lavoro nel caso in cui si aprissero le condizioni per procrastinare il lavoro in smart working. È un grande dibattito, come sapete, in questo momento con il recente DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale si è prorogato lo stato di emergenza sanitario per il nostro Paese. Fino al 31 luglio ancora è possibile lavorare questa modalità, ma che cosa succederà da settembre in avanti nel caso in cui non ci siano ulteriori provvedimenti che consentano la proroga? C'è grande preoccupazione fra i datori di lavoro e le imprese, perché senza una proroga, a partire in realtà dal 1 agosto, si dovrebbero convocare i dipendenti che attualmente lavorano in smart working per sottoscrivere accordi individuali per continuare a lavorare con questa modalità. Quindi siamo in un regime, come dire, Mauro, un po' confuso, bisognerà fare un po' di chiarezza, e questo è l'ultimo tema dei nostri mercoledì del lavoro, ultimo nel senso che questa è l'ultima settimana in cui andiamo in onda, poi riprendiamo a settembre, e che abbiamo scelto appunto di approfondire perché c'è da chiarire un bel po' di cose, soprattutto per i lavoratori che hanno beneficiato di questa possibilità, vorrebbero continuare volentieri a lavorare con questo regime, ma chiaramente non sanno ancora bene come intavolare la trattativa con il proprio datore di lavoro, per cui dobbiamo fare un po' di chiarezza, e chiaramente lo faremo oggi con un grande esperto. Assolutamente sì, perché avremo ospite Giampiero Falasca, che oltre ad essere una voce nota ai nostri ascoltatori ha anche realizzato con Valentina Melis proprio l'altro ieri, lunedì, una bellissima doppia pagina sui temi dello smart working in questo momento delicato di passaggio. I numeri sono quelli abituali: 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta. SMS e WhatsApp invece li potete inviare al 349 238 6666. Dall'altra parte del vetro un inossidabile Peter Bescapè, prontissimo come sempre. Dietro di lui l'incomparabile Marco Lombardo, in presenza. Una gioia, devo dire. Non che ci abbia fatto mancare la sua professionalità anche da remoto, ma rivederlo qui in qualche modo, sai, Debora, mi rincuora, mi rilassa. Eh sì. Allora tutto ciò premesso. Sì, io farei un pochino di giornale radio del risparmio e poi andiamo anch'io, perché abbiamo anche un primo tema da smaltire, da affrontare. Giornale radio del risparmio. Drin drin, edicola risparmio. Giornale radio del lavoro, forse più che giornale radio del risparmio, notizie ma, mi viene da dire, forse è davvero il caso di chiamarle così. LinkedIn, la piattaforma, quella, sai Deborah, quella che si occupa di ricerca di lavoro, dove metti appunto le cose che sai fare, il tipo di lavoro che sai fare, magari qualcuno ti contatta. Tu sei su LinkedIn, Deborah? Ci sono e anche un sacco di contatti. Non sono molto attiva, devo dire, però tutte le cosine di lavoro interessanti che faccio le segnalo su questo social. Adesso non so neanche se è corretto chiamarlo così, tu giustamente lo chiami piattaforma che si occupa di come dire, condivisione di esperienze di lavoro e anche di ricerca di lavoro. Che cosa succede a LinkedIn? Purtroppo hanno annunciato il taglio di 960 posizioni in organico, il 6% della sua forza lavoro. Lo hanno annunciato con un messaggio pubblicato sul sito della società, e la società è di Microsoft, per chi non fosse aggiornato. Ryan Roslansky, che è l'amministratore delegato, ha dichiarato che anche per LinkedIn, o LinkedIn come amano dire loro stessi, si sentono gli effetti della pandemia. Questa pandemia sta avendo un impatto sostenuto sulla domanda di assunzioni e quindi questo si riverbera anche sul business di LinkedIn. Tagli verranno effettuati nelle divisioni globali di vendita e acquisizione di nuovi talenti. LinkedIn assicura che pagherà un intero anno di assicurazione sanitaria ai dipendenti licenziati e 10 settimane di trattamento di fine rapporto. Peraltro le azioni della Microsoft invece vanno bene, registrano un rialzo dell'1,3% e nell'anno 2020 finora hanno sempre guadagnato, stanno a più 34% sulla quotazione di partenza. Prego Deborah. Un'altra azienda in crisi, invece, chi l'avrebbe mai detto? Perché ci dicono che nonostante la crisi i ricchi sono sempre più ricchi, invece Swarovski, la prestigiosa, pregiata gioielleria austriaca nota per i suoi monili in fine cristalli, taglia pure in autunno e toccherà questo taglio a 1000 dipendenti, 1000 posti di lavoro nella sua roccaforte tirolese, a causa appunto della crescente pressione competitiva e anche a causa della pandemia da Covid. Già a fine giugno erano state date delle cattive notizie per quello che riguardava 600 dipendenti dell'azienda in tutto il mondo, e adesso a quanto pare invece il bilancio peggiora perché toccherà tagliare 1000 posti di lavoro. Anche in questo caso l'annuncio è stato dato direttamente dall'amministratore delegato dell'azienda, che ha parlato di una decisione dolorosa ma senza alternative. I dipendenti sono molti di questa società, di questa compagnia molto nota, almeno 34.500 in tutti i paesi del mondo, ma adesso per l'autunno appunto toccherà tagliarne 1000, e chissà quante altre notizie di questo tipo dovremo dare. Ma c'è una buona notizia che riguarda invece il mercato del lavoro italiano in agosto, una buona notizia che riguarda, Mauro, tutte quelle aziende che non si fermano e che non manderanno in ferie i propri dipendenti o i propri nuovi collaboratori, appunto proprio perché si tenterà di recuperare almeno parte di quanto si è perso nei mesi primaverili a causa della pandemia. Cosa succede? Succede che Open Job Metis, che è un'agenzia del lavoro, peraltro unica agenzia del lavoro quotata in borsa, per sostenere le imprese che stanno in questa condizione appunto che dicevi, hanno deciso di congelare il pagamento della propria fattura. Open Job Metis ha deciso di congelare il pagamento della fattura sino al 2021, quindi i lavoratori che vengono assunti in somministrazione riceveranno regolare stipendio. L'azienda utilizzatrice però potrà usufruire di questa dilazione di pagamento e rinviare il pagamento all'agenzia per tutti i mesi del 2020. In questo modo appunto si cerca di dare un sostegno, un aiuto a chi deve recuperare i mesi del lockdown, della chiusura. Parlerei adesso invece di lavoro di donne. Tu lo sai, Mauro, non sono una accanita o patita delle quote rosa, mi interessa però molto il mercato del lavoro femminile, e ci sono delle notizie molto interessanti che arrivano addirittura da Washington, perché il Covid-19 minaccia di cancellare i progressi fatti dalle donne nel mondo del lavoro negli ultimi decenni, rischiando di ampliare il divario di genere. Perché ho detto Washington? Perché queste affermazioni arrivano dritte dritte dalla direttrice del Fondo Monetario Internazionale Cristalina Georgieva, che ha addirittura scritto un post mettendolo sul blog del Fondo Monetario Internazionale. Che cosa dice la GEVA? Gli effetti negativi della crisi sulle donne possono essere evitati con politiche su misura. Ciò che è positivo per le donne lo è per la lotta contro la diseguaglianza di reddito e per la crescita economica. Sono diversi i motivi che mettono a rischio le conquiste delle donne nel mondo del lavoro. Le donne lavorano più degli uomini in settori dove è richiesta l'interazione faccia a faccia. Per questo, per esempio, la disoccupazione negli Stati Uniti è stata più alta fra le donne che tra gli uomini negli ultimi mesi, e le donne più degli uomini lavorano, scusa, ti verrà un po' di orticaria adesso al sentir pronunciare questo concetto, lavorano in nero, soprattutto nei paesi a basso reddito. Questa segnalazione di questo impegno del Fondo Monetario Internazionale a denunciare queste situazioni ci porta dritti dritti, ma ora a segnalare invece quanto scrive oggi il Sole 24 Ore nelle pagine appunto di Punto Lavoro sul tema della parità di genere, perché ci sono delle notizie interessanti che riguardano grandi aziende anche italiane. Sì, perché Cristina Casadei, che ha condotto questo servizio sulla parità di genere, evidenzia che nelle Poste un manager su tre è donna, e poi ci sono casi anche di multinazionali o di aziende italiane che hanno una parità di genere oramai raggiunta. Accenture si è data l'obiettivo del 50-50 tra i propri collaboratori, quindi 50% uomini, 50% donne. La Ferrari, ad esempio, con uomini e donne a parità di ruolo e di mansione e naturalmente di retribuzione, ci mancherebbe altro. E poi anche un altro caso citato nel lavoro, oggi nel Punto Lavoro, nelle pagine di Punto Lavoro del Sole 24 Ore, è quello di Barilla. Peraltro, non scordatevi, se vi recate in edicola per acquistare il Sole 24 Ore, di prendere anche il nostro instant book, il nostro fascicolo dedicato al bonus del 110%. Abbiamo riassunto tutti i capisaldi, le nozioni basiche della materia in un fascicolo che viene oggi venduto con il Sole 24 Ore. Ma adesso, cara Deborah, è mercoledì. Sì, a proposito di donne. Esatto. Sì. A proposito di donne, a proposito di lavoro, a proposito del mercoledì, ti devo dire che mercoledì prossimo i consulenti del lavoro, mercoledì 29 luglio, saranno in piazza Montecitorio perché hanno diverse questioni di cui lagnarsi e da segnalare. E molte, moltissime di queste questioni riguardano proprio il lavoro in Italia. Allora io do il bentornata qui a Due di Denari alla Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone. Buongiorno, bentornata a Due di Denari. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, dottoressa Calderone, ci vuole spiegare quali sono i maggiori, perché in realtà il vostro cahier de doléance, il vostro elenco di rimostranze è molto lungo, ma quali sono i maggiori temi che volete portare all'attenzione del Parlamento? Lei ha detto bene, il nostro cahier de doléance, cioè l'elenco delle cose che non funzionano legate al lavoro, ma più in generale ovviamente a tutte quelle che sono le ripercussioni su imprese e lavoratori di una situazione certamente non facile. Noi non vogliamo svilire e soprattutto non considerare che ci troviamo in una condizione che nessuno di noi, noi tecnici, avrebbe potuto valutare. Però è proprio per questo, per il fatto che la situazione e i mesi trascorsi richiedessero massima attenzione e celerità, che poi invece si è generato un sistema che in qualche modo ha dei presupposti sicuramente positivi, ma che poi nella fase di attuazione ha creato una molteplicità e una molteplicità di problemi per aziende, lavoratori, per professionisti. Noi di che cosa ci lamentiamo? Me lo faccio mettere tra virgolette, perché il nostro è solo ed esclusivamente un momento anche di manifestazione pubblica di quelle che sono le ansie e le preoccupazioni delle persone che assistiamo, degli imprenditori, dei lavoratori. In questo momento abbiamo un problema lavoro in Italia, ce lo dicono i numeri, i posti di lavoro che mancano rispetto allo scorso anno, ce lo dice sicuramente il fatto che in questo momento stiamo continuando a drenare tante risorse sul fronte della cassa integrazione. Utilizzo questo termine per semplificare, perché poi invece di semplice sugli interventi a sostegno al reddito non c'è stato nulla, visto e considerato che le varie norme ci hanno regalato 25 modi diversi di chiedere lo stesso lo stesso sussidio, lo stesso indennizzo per i lavoratori. E parto proprio da questo. Infatti questa normativa emergenziale è stata un disastro, voi l'avete già denunciato dal punto di vista gestionale, poi chiaramente bisognava tutti intervenire, compreso il governo, nel tempo minore possibile e con la massima rapidità. Però certo questo accavallarsi di procedure, di normative, eccetera, ha creato per parecchi imbarazzi e forse anche ha rallentato un pochino le erogazioni, però per carità su questo siete competenti voi, dottoressa Calderone. Prego. Questo sicuramente ha rallentato e oggi non dimentichiamoci che c'è ancora tanta gente, tanti lavoratori che devono percepire i sussidi di cassa integrazione del mese di maggio. Allora ecco, se noi vogliamo guardare a quello che sarà il futuro di questo paese anche nei mesi prossimi, anche all'indomani dell'accordo sul recovery fund, io penso che sia importante, i consulenti del lavoro vogliono mettere l'accento su che cosa non ha funzionato di questo primo periodo di esperienze, fare l'elenco proprio di quelle che sono le situazioni di disagio che abbiamo vissuto. Noi abbiamo colleghi, tutti quanti noi siamo ormai all'interno dei nostri studi 7 giorni su 7 a lavorare per cercare di interpretare norme spesso incongruenti tra di loro e per mettere anche in relazione le norme con quelle che poi sono le circolari spesso postume o anche intempestive con cui per esempio l'INPS ci dà indicazioni. Venerdì scorso a fine serata un termine decadenziale come quello per la presentazione delle domande delle plurilocalizzate è stato prorogato con messaggio INPS e ieri un altro messaggio l'ha ulteriormente prorogato. Io non credo che questo sia il modo per poter dare sicurezza al sistema e soprattutto dire agli imprenditori di provare a riprendere a lavorare, perché ancora ci mancano tante tante aziende all'appello che non riescono a rientrare in attività e che ovviamente hanno bisogno invece di comprendere che cosa sarà il loro futuro. Deborah. Presidente Calderone, la vostra agitazione fa il paio con quella dei fiscalisti, dei commercialisti che sono sul piede di guerra per la questione dell'ingorgo fiscale, quindi sicuramente anche su questo tema voi avrete il modo appunto di segnalare questa vostra situazione di insoddisfazione in questa fase. Ricordo agli ascoltatori che la vostra mobilitazione, Mauro prima ricordava la data, segnaliamo qualche dettaglio, avverrà appunto il 29 luglio alle 15, credo a Montecitorio, giusto davanti al palazzo quindi del Parlamento. Sarà aperta ad un massimo di un centinaio di persone per la questione delle restrizioni sanitarie ancora vigenti. Dottoressa Calderone, noi fra un po' affronteremo il tema dello smart working, questa anche indeterminatezza legislativa che riguarda questo istituto che è stato utilizzato con grande soddisfazione per fortuna per molti lavoratori che in questi mesi hanno dovuto imparare a lavorare da casa da un giorno all'altro, impegnando molto anche le aziende. È stato anche questo, immaginiamo, un tema che voi avete dovuto affrontare nella vostra attività consulenziale per le imprese. Che cosa vorreste sapere rispetto a questo? Ci dia un po' di materiale per continuare la nostra trasmissione. Ma guardi, il tema dello smart working è sicuramente un tema, come dire, di prospettiva, visto e considerato che per necessità abbiamo sperimentato un istituto che era sì previsto nella norma e nella legge dal 2017, però che poi era veramente patrimonio di piccole di realtà che poi erano solo ed esclusivamente quelle delle grandi imprese che lo applicavano per uno o due giorni alla settimana. Questo poterlo sperimentare ci ha fatto capire anche quanto sia necessario poi delimitare e delineare quelli che sono i contorni dello smart working del futuro, perché in regime di emergenza abbiamo ovviamente più privilegiato l'aspetto giustamente necessario della salvaguardia della tutela della salute dei lavoratori, non esponendoli a rischio e quindi consentendo ovviamente la prestazione da casa. Però nel contempo sappiamo perfettamente che quello che ci è stato restituito è sicuramente un impegno da parte dei lavoratori stessi, ma in una forma di lavoro ibrido che è quello dell'home working, non dello smart working, perché in quei momenti non era certo possibile progettare anche una modalità per definire al meglio quella tipologia di prestazione anche in termini di risultati attesi. Allora io credo che sia una sperimentazione che possa essere valida. Certo, io non penso che possa diventare il punto di riferimento della pubblica amministrazione per i prossimi anni. Cioè pensare e ipotizzare a un 50-60% dei dipendenti della pubblica amministrazione smart working vuol dire avere ben chiaro in mente qual è lo stato in questo momento del livello di informatizzazione della pubblica amministrazione stessa. Ci sono tanti pubblici dipendenti volenterosi, ma non basta la volontà, è necessario avere gli strumenti, progettarli e soprattutto farli funzionare. In questo momento noi consulenti del lavoro combattiamo con il mostro burocratico e quindi sappiamo perfettamente quanto invece sarebbe necessario semplificare le procedure, razionalizzarle e soprattutto metterle a sistema in un modo semplice. Io mi auguro che in futuro il governo voglia ascoltare di più i professionisti. Poi la nostra manifestazione è condivisa anche con le altre categorie professionali e io dico noi sosteniamo la battaglia dei commercialisti, i commercialisti sostengono quella dei consulenti del lavoro. E c'è una grande sintonia in questo momento tra le due categorie perché noi guardiamo alle aziende, guardiamo al lavoro, guardiamo al benessere dei lavoratori. Smart working sì, ma prima definire attentamente i processi e soprattutto le responsabilità. E tra l'altro lei, Presidente, ha già risposto a quella che sarebbe stata la mia ultima domanda, cioè condividete, appoggiate anche la protesta dei commercialisti che hanno annunciato uno sciopero per settembre per la mancata proroga delle scadenze fiscali con questo ingorgo di scadenze. Il governo ha fatto sapere che non era possibile fare altrimenti, vediamo se si troverà il modo, così in extremis viene da dire, per rimediare, per fornire magari qualche giorno in più senza ulteriori sanzioni. Voi immaginate che il governo abbia un'apertura possibile in questo senso? Ma io mi auguro fortemente che così sia, perché credo che i dati parlino da soli. Ieri penso che pur volendo pochi italiani abbiano potuto provvedere all'obbligazione fiscale, anche perché nell'arco di 15 giorni ci sono quasi 250 scadenze. È impossibile in questo momento, con 8 milioni di lavoratori in cassa integrazione, pensare che le aziende possano pagare circa 8 miliardi di tasse che devono pagare. Allora io credo che sia importante impiegare bene i denari del Recovery Fund, avere un'idea di paese e soprattutto avere un'idea di come vogliamo investire per rendere il nostro paese più performante e soprattutto per garantire i posti di lavoro. Meno 11% di PIL previsto per l'Italia in questo anno è un campanello d'allarme importante per tutti quanti noi. E i professionisti sono pronti a dare il loro contributo, ma necessitano di essere ascoltati sui processi tecnici. Dicevo prima che c'è sintonia tra le categorie professionali, ci vedrete presto in manifestazione assieme. Grazie, grazie a Marina Calderone, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. La manifestazione, la mobilitazione è prevista per mercoledì prossimo, tra una settimana, nel pomeriggio a Montecitorio. Adesso un attimo di pazienza perché dobbiamo sapere come stanno andando le borse. Bravi, bravi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Due di denari. Dov'è il nuovo lavoro? Ecco Deborah, qui forse più che dov'è, anche com'è il nuovo lavoro, nel senso che dobbiamo ragionare, come detto, sullo smart working. Già gli ascoltatori ci hanno inviato diverse domande, perplessità, segnalazioni, eccetera, e allora noi abbiamo al telefono Giampiero Falasca, l'avvocato Giampiero Falasca, esperto del Sole 24 Ore, da ultimo autore non solo delle due pagine che avete potuto leggere lunedì, le 10 cose, la bussola per intervenire e intervenire sulle norme per lo smart working, ma anche di un volume, Il lavoro post pandemia, guida pratica per gestire la crisi e la ripresa. Ho detto correttamente, avvocato Falasca? Perfetto, perfetto. Perfetto, grazie anzi della citazione. No, ma sarà un piacere leggerlo, ma come va a finire con questa cosa dello smart working? Allora, se ho capito bene, ma io sempre mi rivolgo veramente con molta umiltà, fino al 31 luglio andiamo avanti con questo smart working facilitato. La pubblica amministrazione invece ha già un orizzonte più lungo, i dipendenti privati si vedrà nel senso che non lo sappiamo, in teoria finisce tutto il 31 luglio di questo smart working facilitato, oppure esatto. No? Ah no, esatto, è giusto così, esatto. Ma non giusto va bene. Così, ma c'è poi la sorpresa, c'è sempre insomma nelle cose del lavoro ormai c'è la sorpresa, per cui stanno preparando un decreto per cui la scadenza del 31 luglio comunque sarà portata più avanti nel tempo, ora non so se 31 dicembre o cosa. Quindi riassumendo, un'azienda oggi che vuole arrivare al 31 dicembre deve comunicarlo entro il 31 luglio e approda a fine anno. Questo legato al fatto che sia prorogato lo stato di emergenza, circostanza che consideriamo sostanzialmente sicura, però questo ha norme invariate, probabilmente insomma sarà portato tutto a fine anno. Diciamo che ci stiamo un po' incartando, per usare un termine molto poco giuridico ma che dà l'idea, serve un attimo qua di riflessione e di mettere una regola un po' più chiara. Però ecco, non c'è nessun allarme, questo onestamente è più un fatto di scrittura delle norme, ma purtroppo quando si fanno, producono 50, 100 articoli al mese, questo succede. Qui siamo in una fase di bulimia normativa che purtroppo non si ferma. Avete notato che è in preparazione il nuovo decreto sul lavoro, appena convertito il decreto rilancio. Ma infatti ed è quello che poi dovrebbe contenere ad esempio anche altri ammortizzatori, è quello stesso provvedimento. Esatto. Quindi la norma sui licenziamenti. Esatto, anche blocco dei licenziamenti, giusto ricordarlo. E allora, se non ci fosse niente, dal 1 agosto nel privato si dovrebbe tornare allo smart working, quello della legge del 2017, e quindi con accordi individuali azienda-lavoratore? Mi corregga, esatto. Io mi fermo perché voglio sempre essere corretto o rassicurato, sì. Dipende. E invece, siccome siamo pressoché sicuri che qualcosa ci sarà, anche nel privato vedremo fino a quando, se fino a fine ottobre o fino a fine dicembre, si potrà continuare a utilizzare questo smart working, ma senza sostanziali novità rispetto a quello che abbiamo sperimentato un pochino alla garibaldina, per dirlo esatto, elegantemente, da marzo a oggi? Sì, senza novità, ma io sto dicendo una cosa anche sullo speciale che abbiamo fatto lunedì su Sole 24 Ore, in cui credo molto. Non andiamo dietro a queste scadenze, ma dichiariamo la fine del lavoro casalingo. Io l'ho chiamato proprio lavoro casalingo, neanche lavoro home working o quant'altro. Cioè, quel lavoro fatto di corse, c'è stato un incendio, siamo corsi, un tifone, quello che è, siamo corsi nel rifugio antiatomico, non eravamo pronti e ci siamo organizzati come ci è venuto. Quindi le abbiamo fatto le conference call col gatto che camminava sulla tastiera, i figli che si azzuffavano, le cose più improbabili. E va bene, non potevamo fare altrimenti. Ma abbiamo portato la costrizione del lavoro d'ufficio, l'abbiamo complicata ancora di più mettendoci le costrizioni della vita familiare. Non è quello lo smart working. Le aziende adesso devono iniziare, a prescindere da questa roba del 31 luglio, a pensare a come tornare al modello di lavoro agile che pensava il legislatore nel 2017 e che tutti gli esperti in questi anni sono andati costruendo, che è completamente un'altra cosa. Già il concetto di agilità è quello che non abbiamo potuto, per forza di cose, sperimentare in questi mesi, no? Perché cosa c'era di agile nello stare piombati dentro casa senza potersi alzare per 12 ore? E quindi la proposta, la chiave interpretativa che io sto cercando di portare avanti è proprio questa, di dimenticare e di imparare anche dalle esperienze di questi mesi e di iniziare a farlo partendo dalla prima domanda: ma cosa ci devo fare io con lo smart working? Questa è la prima domanda che si deve fare un'azienda. Voglio rendere i dipendenti più produttivi, oppure voglio aiutare chi ha problemi familiari o di work-life balance, oppure voglio ridurre il costo delle locazioni? Questa è la prima grande domanda, ricordandoci che poi c'è anche il tema devo gestire la pandemia, che però è un tema transitorio. Quindi non, per questo dico, dimentichiamoci quel modello. Facendo tutti gli scongiuri, non è detto che noi viviamo un'altra fase di lockdown, ma comunque non può essere quella la vera finalità, perché là parliamo di emergenza. Debora. Avvocato Falasca, lei ha detto che le aziende che vorranno prorogare la modalità di lavoro agile fino alla fine di dicembre devono comunicarlo entro il 31 luglio, questo ci è chiaro. Sì. Che cosa succede in questi sei mesi nel caso in cui un lavoratore decida che però appunto ne ha fin sopra i capelli e vuole ritornare a lavorare in azienda? Perché questo è un aspetto che io stessa ho sperimentato sulla mia pelle al lavoro. Naturalmente non è che uno si alza la mattina e decide, anche se sono in smart working, oggi voglio andare in ufficio perché mi servono dei documenti che ho lasciato là. In realtà è molto complicata anche la giornata di rientro qualora la si voglia fare, quindi ci dà un po' di punti di chiarimento rispetto a questo tema, ecco. Come si gestiscono questi aspetti di flessibilità, se vogliamo, anche? Allora, anche qua dobbiamo sapere in quale campo stiamo. Se stiamo nello smart working emergenziale, in quel caso l'azienda mi ordina di stare a casa e io non posso mettere piedi in azienda. Molto semplice, perché la finalità ultima di quella disposizione è evitare, è una misura, diciamo, di prevenzione di eventuali contagi, no? Quindi è una misura di sicurezza che io non posso derogare. Quindi la risposta paradossalmente è semplice. Sono stato collocato in smart working e devo stare. Se io vado in ufficio, l'azienda si può teoricamente rifiutare di farmi entrare. Diverso è il caso in cui siamo nello smart working normale, ordinario. In quel caso dipende da come mi sono accordato con l'azienda. Quindi posso prevedere un rientro flessibile, oppure posso prevedere che in alcuni giorni sono a casa e in altri sono in azienda. Questa è la normalità, e in questa normalità c'è anche molta flessibilità. Cioè tutto quello che è smart working ordinario è proprio agilità anche delle regole. Non ci sono dei paletti prestabiliti e delle cose che si possono con certezza fare o non fare, ma diciamo si mette al centro del rapporto tra il lavoratore e l'azienda la fiducia, il risultato e la volontà di cercare di arrivare al risultato della prestazione secondo canoni nuovi, non la misurazione del tempo e dello spazio. Quindi tornando alla domanda, se l'azienda mi ha detto di stare a casa, io devo restare a casa, non ho grandi alternative. Certo. Ovviamente potrei chiedere un permesso. Potrei chiedere un permesso. Sapete invece cosa è successo? Al contrario, è successo che qualcuno ha chiesto di andare in smart working e gli è stato negato questa possibilità, perché magari si diceva che era incompatibile con le mansioni. Quello è un altro problema. Adesso è leggermente, se ne parla di meno, ma durante il lockdown c'era anche questo tema. Alcune aziende, poche, ma hanno detto no, voi dovete stare qui perché noi non possiamo mettervi in smart working. Quella è stata una scelta delicata, rischiosissima, ma che qualche contenzioso l'ha prodotto. Avvocato Falasca, dobbiamo fermarci per le informazioni sulla viabilità, però ci sono diverse domande dagli ascoltatori, forse riassumibili anche in questo senso. Che prosegue nel filone aperto da Deborah, devo dire. Quando sono in smart working, ma l'azienda mi dice devi tornare il giorno tale, devi però essere qui presente, è una cosa legittima, sì o no? Ci sono diverse domande che più o meno girano intorno a questo tema, cioè organizzazione del tempo, oppure quante ore devo essere reperibile, altro aspetto molto delicato, ma tutto questo glielo chiediamo di nuovo dopo il traffico. Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare e con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. Due di denari. Dillo a due di denari. Io mi auguro che si rientri alla veloce nelle aziende a lavorare, perché lavorare da casa è un incubo, è uno stress, ti porta alla follia. Lavori di più, perché comunque sei in casa, non ti rendi conto e quindi lavori molto di più, non stacchi, perché anche se ti fai le tue pause, dalla cucina vai alla sala, dalla sala vai al bagno, ed è uno stress, veramente ci sta stressando, si lavora malissimo a livello di stress psicologico e anche di stress fisico, anche perché io lavoro con un PC, le connessioni fanno paura, sono tremende e si lavora molto male. Ritorniamo a lavorare in azienda prima che ci ricoverino tutti. Avvocato Falasca, una voce probabilmente minoritaria, perché da molte indagini invece risulterebbe che lo smart working è sostanzialmente gradito dal dipendente, però solleva dei problemi veri. Ma quanto tempo devo stare connesso, connessa? Ma quando devo eventualmente rientrare o posso rientrare? Insomma, come ci si regola in questi casi? Premesso che abbiamo tutti dovuto imparare così in poche ore a gestire il lavoro da casa o comunque da fuori azienda. Ma io condivido molto quello che dice l'ascoltatrice, perché secondo me le due cose, è anche vero quello che dice lei, cioè c'è grande favore verso lo smart working, ma quei problemi lì sono problemi reali che tutti hanno un po' dovuto riscontrare. La sbornia digitale è un qualcosa che abbiamo provato tutti, cioè questa sensazione per cui a fine serata eravamo un po' ubriachi per essere stati troppe ore di fronte al PC, e questo è perché appunto nel modello di lavoro agile si è estendato qualcosa che era inevitabile, cioè la continuità a casa, e quello l'errore: non si può stare tutta la settimana per tutto l'orario di lavoro chiusi in casa di fronte al PC, è dannoso per la salute, è dannoso per la produttività aziendale e non rende fertile il lavoro. Il vero smart working è alternanza, si va qualche giorno a casa, qualche giorno a lavoro, e azienda per azienda si decide quanto è sostenibile, quanto è utile e quanto e di interesse delle parti, ma il futuro è quello lì, e lì ci sarà grande accettazione delle persone, perché poi potremo decongestionare le città, potremo gestire meglio le aspettative individuali. Certo, dobbiamo anche addestrarci. Io tempo fa ero una festa di bambini, di sabato sera c'era una mamma che era incollata nervosamente allo smartphone, la conoscevo, dico: ma scusami, che ti succede? Fa: no, è il mio capo che mi sta scrivendo da due ore. Erano le 9 di sera di sabato, dico: ma è un'emergenza? Fa: no, lui da quando siamo in smart working fa così. Ecco, quel capo non aveva capito nulla, cioè smart working non significa devastare la vita personale propria e altrui, è sbagliato, cioè ci devono essere comunque delle regole di buon senso, ma ci sono anche le regole legali, cioè l'orario di lavoro non è vero che non c'è in smart working, c'è anche in smart working, è che non viene misurato e poi si può con flessibilità spostare il momento del lavoro da una fase all'altra della giornata. Insomma, certo. Il salto di qualità da fare qua è notevole, il salto anche culturale dei manager è importante, è necessario. Beh. Sicuramente, avvocato Valasca, abbiamo avuto un'occasione storica proprio per studiare in maniera molto attenta il modello ideale per il nostro paese, considerato anche la diversa forma che hanno le aziende in Italia, perché lei, come sottolineava prima, appunto ci sono le multinazionali che magari sono riuscite ad implementare queste politiche con più facilità, per le piccole e medie imprese è stata tutta un'altra storia, per poi non parlare di tutto l'ambito pubblico, che anche quello è un altro tema. Un'altra domanda tecnica, poi dobbiamo andare all'ultima rubrica di oggi, è già pronto il collega Roberto Bonzio, ma un'ultima domanda, avvocato Falasca: in questi mesi in cui abbiamo parlato dell'istituto dello smart working, molti ascoltatori ci hanno chiesto: e vabbè, ma a me aspetta lo stesso il buono pasto, e abbiamo già detto che no, perché il lavoro in smart working non è riconosciuto. I livelli retributivi naturalmente sono gli stessi del lavorare in azienda. C'è il caso anche in cui un datore di lavoro può avere la facoltà di chiederti: rivediamo il trattamento contrattuale? Può essere anche che sia capitato una situazione del genere? È successo, ci sono anche accordi sindacali, ma è completamente illegittimo, non si può fare, cioè la legge dello smart working è chiara, non c'è discriminazione, non sei in vacanza, non è un benefit, e quindi dal punto di vista retributivo non c'è il buono pasto è un'altra questione, ma sul trattamento economico assolutamente vietata qualsiasi discriminazione, quindi attenti anche amici del sindacato che firmate questi accordi, perché sono nulli. Eh sì, perché a volte magari ci si fa cogliere dalla voglia di dare qualche presunta comodità in più, e poi magari invece si rinuncia a qualche diritto che non è rinunciabile. Grazie a Giampiero Falasca, avvocato, esperto per il Sole 24 Ore. Noi ricordiamo anche il lavoro post pandemia, guida pratica per gestire la crisi e la ripresa, proprio coordinato dall'avvocato Falasca. Grazie, avvocato. Grazie a voi. Rinascerò. Rinascerai quando tutto sarà finito. E come ogni mercoledì, anche per questo ultimo mercoledì di diretta da parte di Due di Denari, poi torneremo appunto a, dopo le ferie, dopo a fine di agosto, c'è Roberto Bonzio. Roberto Bonzio, giornalista curioso, come lui si definisce, e indaga sul talento italiano con un progetto che si chiama Italiani di Frontiera, quindi va a cercare storie che diano un po' il senso di sapere ricominciare, avere il coraggio di ricominciare. Ha una piattaforma, si chiama Ne Usciremo Migliori. Bonzio, buongiorno, che storie ci vuoi raccontare? Buona giornata Mauro, buona giornata Debora e tutti gli ascoltatori. Come sempre io prendo un po' la tangente, parto un po' di traverso sul tema che era quello che avete trattato oggi, il telelavoro. Tra l'altro sono in una splendida giardino botanico in Salento, spero che la connessione sia buona perché da qui non ho avuto la possibilità di sentire la vostra trasmissione. Tre spunti da tre personaggi veramente di primo piano. Il primo è Lorenzo Tione, la persona che ha gettato le basi del motore di ricerca Bing, di venduto a Microsoft per 100 milioni di dollari, poi cosa ha fatto? È diventato coautore e produttore di un musical a Broadway. Oggi continua a lavorare tra Broadway e vari progetti digitali. Ci siamo sentiti qualche giorno fa, devo ancora pubblicare il suo contributo, e dice, ovviamente per uno spettacolo, per un'industria dello spettacolo, un tracollo quello che è successo con la pandemia, però contemporaneamente io ho attività digitali, anche di promozione dello spettacolo, possibilità di programmare a lunga scadenza attraverso questi strumenti di telelavoro, e poi ho capito definitivamente che non ha più senso viaggiare come viaggiavo prima, e quindi almeno un 30% di redditività in più nel fare tutto il lavoro che facevo magari correndo per riunioni qui a New York, ma va spesso in California, eccetera. Questo non ha più senso, la possibilità che noi abbiamo con strumenti digitali ci rende non solo molto più efficienti, ma possiamo usare questi strumenti anche per settori come gli spettacoli che in questo momento sono praticamente fermi. Secondo è Ernesto Siroli, che è un 30 secondi, Roberto. Guru mondiale della creazione di nuove aziende in tutto il mondo, ne ha aiutato a lanciare più di diverse migliaia, e dice un aspetto psicologico che non consideriamo nel telelavoro, che deve cambiare il nostro approccio. Per la prima volta noi ci troveremo spesso di fronte a, anche per un'ora, persone che non conosciamo. Il modo in cui ci proponiamo, il modo in cui quello che noi leggiamo della faccia della persona che abbiamo davanti, persino dell'ambiente che lui ha dietro, ci dice qualcosa che prima era impensabile sia nelle riunioni che si facevano, e questo ci richiede un approccio psicologico anche e completamente diverso, una sorta di rivelazione come questi strumenti possono aprirci veramente delle frontiere inaspettate, ma ci richiedono un modo diverso di pensare. Grazie Roberto Bonzio. Debora, noi torniamo domani, c'è Investire Informati. Torniamo domani, a domani.